Avventurieri, nelle profondità della Terra esistono molti tipi di minerali, ma solo uno è abbastanza resistente da sopportare graffi e urti senza rompersi facilmente. Per riconoscerli, i minatori utilizzano la scala di durezza di Mohs, che classifica i minerali da 1, il più tenero, a 10, il più duro. Oggi vi presento tre pietre preziose appena estratte. Calcite, una pietra chiara che può essere graffiata con un'unghia. Corindone, una gemma scura che può incidere la maggior parte delle pietre, ma sotto pressioni estreme può frantumarsi. Quarzo, una pietra limpida, capace di graffiare l'acciaio e il vetro, ma non può essere graffiata dal vetro. Solo la pietra con la durezza maggiore riuscirà a calmare la creatura che vi attende più avanti. Quale scegliete?